situazione ora di attesa a Baghdad per quello che succederà nel momento in cui il Parlamento iracheno ha votato una bozza di risoluzione non vincolante, ci tengo a sottolineare, che chiede che loro vengano espulsi dal paese. Nel frattempo sono state fermate tutte le operazioni, sia quelle contro l'ISIS che quelle di addestramento. Qui in Iraq gli iracheni invece sono molto preoccupati del fatto che due attori stranieri, quindi Iran e Stati Uniti, combattano la loro guerra sul suolo iracheno, quindi a discapito degli iracheni, che non hanno niente da guadagnarci in tutto questo. Altro fattore che si aggiunge è quello delle proteste contro il governo, perché questo governo di fatto debole, anche il solo attacco che c'è stato degli americani racconta una certa fragilità del governo iracheno. Però questi ragazzi della protesta, che chiedono libertà, indipendenza, democrazia, un paese completamente diverso, sono quelli che danno anche fastidio a tutte le milizie che invece vogliono controllare il paese. Queste proteste, queste diciamo vere e proprie quasi rivolte, hanno prodotto molte vittime negli ultime settimane, però sono state un po' oscurate dagli ultimi avvenimenti. Sì, la repressione è stata fortissima, perché in 3 mesi sono morte 550 persone. L'ultima 3 sere fa un attivista che, tornando a casa da Piazza Tahrir, è stato giustiziato letteralmente con un colpo alla testa. 21.000 feriti e 60 persone scomparse, quindi la situazione è piuttosto intensa. Però loro non mollano, anche perché dopo tante persone che sono morte lo fanno anche per loro. Tutto questo, tutta questa situazione, questa crisi medio orientale, certo oscura quello che loro vogliono, cambiare questo paese. Nello specifico, tu hai avuto modo di confrontarti con loro, come immaginano questo cambiamento? Beh, intanto vorrebbero una classe politica completamente diversa, non più legata alle milizie, non legata alla religione. Questi ragazzi sono, che poi non sono solo ragazzi, ma ci sono anche degli adulti, anche over adulti, che vogliono un paese laico, vogliono un paese, parliamo di intellettuali, di artisti, di studenti, tutta quella parte della popolazione che di solito non si ascolta e ha poca voce. Invece in realtà queste proteste, che raggruppano migliaia di persone, in qualche modo si stanno facendo sentire. Ora purtroppo sono oscurata da quello che sta accadendo. C'è in Italia chi ha definito queste proteste come un secondo tempo delle primavere arabe. Tu sei d'accordo? Ma quello che dicono anche loro, che loro è la madre di tutte le rivoluzioni, e questa è la loro lotta, farà sì che in Medio Oriente ci sarà una seconda rinascita delle rivolte, e loro pensano alla Siria e anche altri paesi medio orientali, credono loro di poter essere un motore trainante anche per tutti gli altri. Le prospettive da qui in avanti? Difficile capire che cosa accadrà. Sicuramente, a sentire quello che dicono i politici iracheni, probabilmente non verranno cacciati gli americani negli stranieri, anche una cosa molto difficile da fare. Quello che sarà fatto è magari cambiare alcune, esiste un protocollo di intesa tra Stati Uniti e Iraq, cambiare alcune diciture, quindi magari ridurre lo spazio aereo, e quindi ci saranno delle limitazioni in più, anche perché questo attacco è stato veramente d'imbarazzo per il governo iracheno.